tutto il paese, insomma, perduti mani, piedi, panza, petto, ma fatto solo occhi, occhi a filo di finestra, occhi a filo di porta, come una passata di soiole sotto un banco di sabbia, che pensano di nascondersi e invece si rivelano per centinaia e centinaia di luccicanti. Appunto, questi mille paia d'occhi che lo puntano alle spalle, che gli fanno fra le scapole una rosa più grossa di quella. Spingono verso la penultima stazione, proprio così, nella sua mente. E ancora una parola del mortorio che gli viene naturale. Sempre più va paragonando, dentro il mare di autocompassione in cui annega se stesso a Cristo e alla sua corsa alla Via Crucis, dove il previsto giudio era pronto a mettere un'altra spina alla corona, un altro chiodo alla croce. Mi piange il cuore, carissimo Don Nenè, mi piange il cuore, ma proprio non sappiamo come venirle incontro. Ma perché non si rivolse a Don Saverio Fede? Forse lui potrebbe...